voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Fedon, l'inventore del portaocchiali, dal bellunese alla Cina, di Alessandra Tedesco. La storia di molte aziende italiane, oggi leader nel mondo, nel proprio settore, inizia spesso con un «c'era una volta un piccolo laboratorio artigianale». È quello che succede con Fedon, l'azienda che ha inventato il portaocchiali. Per capire come nasce questa azienda a Valle Sella, nel bellunese, nel 1919, bisogna fare un ulteriore passo indietro al 1878. È in quel momento, quando alcuni imprenditori del Cadore iniziano a produrre lenti, montature e astucci, che in Italia inizia a svilupparsi il settore dell'occhialeria. Nel giro di qualche anno il distretto cresce e nasce così l'attività di Fedon, destinato a diventare leader mondiale dei portaocchiali. È Callisto Fedon, attuale presidente del gruppo, a raccontarci i primi passi avviati dal nonno. Mio nonno Giorgio ha iniziato prima a lavorare nell'occhialeria, ha fatto qualcosa come 35 anni. Dopo essere, come molti dei suoi conterranei, emigrato all'estero, poi ha lavorato 35-36 anni finché a un certo punto il titolare dell'azienda o gli accordi intercorsi ha fatto sì che cominciasse da solo a produrre i portaocchiali per l'azienda stessa. Quindi da un inizio nella cantina di casa, quindi con nulla, a poi trasferirsi nella vecchia scuola, che c'era più spazio, per poi iniziare negli anni 20 da una casa di proprietà dove con una trentina di persone è cominciato tutto, quindi direi a capitale zero, nel senso che non, nemmeno gli investimenti servivano così grandi, un lavoro molto manuale, e con questi 20-30 operai è iniziata tutta la storia nel 1919. Nel giro di quattro generazioni la Fedon è passata da un laboratorio artigianale a un'azienda che ha stabilimenti all'estero, dando lavoro a più di 1500 persone. La prima svolta nella storia di questa impresa si ha negli anni 30, quando inizia l'export. L'inizio dell'espansione si può collocare con l'inizio dell'esportazione, che per noi è verso gli anni 30. Infatti avevamo un grandissimo cliente in Inghilterra, che ci comprava veramente tante tante cose. All'inizio i prodotti erano tutti fatti con materiali naturali, quindi pelle, cartone, metallo. Le materie plastiche sono cominciate negli anni 60, quindi tutto quello che noi chiamiamo adesso materie plastiche una volta proprio non esisteva. Tutto quello che non era derivante da quello che si trovava in natura. Seguono anni di alti e bassi, c'è la guerra, ma con gli anni 60 arriva il boom economico. Cresce la domanda di qualsiasi prodotto e anche di custodie per occhiali e altri accessori. Ci vorranno però ancora 20 anni per arrivare alla vera grande svolta nella storia di Fedon. Tutto accade negli anni 80, quando le grandi firme iniziano a interessarsi anche all'occhialeria e alle custodie per occhiali. Negli anni 80 è iniziato l'abbinamento del portaocchiali alle griff, quindi è stato il momento in cui i grandi nomi della moda sono entrati nel settore. Prima non c'erano proprio. È cominciato un'azienda a utilizzare queste griff, poi c'è stato il grande avvento dei grandi nomi. I francesi sono stati i primi, gli italiani sono venuti dopo. Come le griff hanno scoperto, diciamo, se così si può dire, il mondo dell'occhiale, ogni occhiale nasceva già con un'immagine complessiva, completa, e con il suo portaocchiali. A questo punto l'ottico, che prima comprava direttamente, l'azienda vendeva solo l'occhiale, poi l'ottico si forniva del portaocchiali, come tuttora, per fare pubblicità al suo negozio. Infatti quando si va in un negozio d'ottica normalmente ti danno un astuccio con il nome dell'ottico che si fa ricordare in questa maniera. Ecco, tutte le aziende hanno cominciato a far uscire l'occhiale con i portaocchiali. In questo momento le dimensioni sono cambiate in maniera fortissima e gli italiani rimangono in questo momento i più grandi al mondo. Infatti noi vendiamo, diciamo che il mercato italiano come assorbimento è qualcosa come il 5-6%, e tutto il resto per un motivo o per l'altro va all'esterno. Per Fedon dunque è l'export a determinare la maggior parte del fatturato. Fatturato che nel 2013 ha sfiorato i 61 milioni di euro, in sostanziale equilibrio rispetto all'anno precedente. Se gli anni 80 hanno visto una forte crescita dell'impresa e la quotazione in borsa a Parigi, nella seconda metà degli anni 90 Fedon, come altri produttori, si trova a fronteggiare la spietata concorrenza cinese. Prodotti di minor qualità, ma decisamente più economici, che creano un terremoto nel settore degli accessori per occhiali. Oggetti che, dovendo contenere qualcos'altro di maggior valore, devono necessariamente avere prezzi contenuti. I clienti non vogliono spendere troppo per il portaocchiali. Così, Callisto Fedon reagisce all'attacco cinese. A questo punto sono arrivati i cinesi che si sono accorti che esisteva questo settore e sono ricominciati ad arrivare dei prezzi impossibili. A questo punto il primo step nostro è stato quello di creare una società di automazione. Abbiamo speso e fatto e automatizzato all'impossibile con grossi capitali e anche con grosso impegno finanziario, economico, però non è bastato. A quel punto siamo dovuti andare a lavorare in Cina, dove attualmente si colloca la gran parte della nostra produzione. Noi in Italia siamo ancora circa 250 persone tra diretti e indiretti, quindi non siamo pochi, però l'azienda più grande è in Cina. Poi abbiamo un'altra produzione in Romania. E questo tendo a ribadirlo perché noi non abbiamo ancora affrontato bene il problema del produrre all'estero per sopravvivere. Noi pensiamo sempre che le aziende vanno all'estero e rubano qualcosa al paese di origine. In questo momento bisogna considerare tutte quelle aziende che hanno profuso energie, investimenti, sacrifici, rischi per continuare ad esistere e hanno dovuto farlo andandosi a cercare i costi più bassi perché i nostri clienti non accetterebbero più i prezzi che facevamo. Io ho calcolato che noi in questo momento facciamo 61 milioni circa di euro di fatturato. Ho calcolato che se dovessi attualizzare i prezzi che facevamo negli anni 80, adesso faremo 350 milioni di euro di fatturato. Questo per aver dovuto continuamente diminuire il costo, i prezzi di quello che vendiamo. La maggior parte della produzione Fedon è stata spostata dunque in Cina e Romania, sia per un costo del lavoro più basso, sia per un prezzo più vantaggioso delle materie prime. I prodotti che devono essere venduti a un prezzo contenuto escono quindi dalle fabbriche all'estero. In Italia è rimasta la produzione di qualità, quella per le GRIF che chiedono necessariamente il Made in Italy. La reazione all'attacco cinese ha fatto sì che il gruppo Fedon arrivasse più preparato alla crisi del 2008, come racconta ancora Callisto Fedon. È stata più avvertita come una problematica di costo, di margine costo, prezzo di vendita, che come un problema di quantità, che ovviamente è diminuita anche quella, ma non in misura così drastica e forte. Forse, ecco, questo ce lo diciamo in azienda, noi essendo dovuti intervenire prima a razionalizzare e migliorare le cose, quindi nell'intorno al 2005-2006, quando questa, lo strapotere dei cinesi a livello di prezzo si è manifestato in tutta la sua dimensione, abbiamo dovuto, per forza di cose, metterci nella condizione di razionalizzare e diminuire i nostri costi prima della crisi. Forte dei suoi risultati, Fedon ha deciso negli ultimi anni di lanciarsi in un altro mercato, che al momento rappresenta il 10% del fatturato. Si tratta della produzione di valigie, borse da lavoro, portafogli, custodie per tablet e altri accessori, venduti soprattutto attraverso una propria rete di negozi monomarca. Si è aggiunta alla nostra attività tradizionale quella che noi definiamo di accessori in pelletteria. Non è soltanto pelletteria, sono articoli da lavoro, da viaggio, sono oggetti, oggettistica, cose che all'inizio, verso il 2005-2006, ho cominciato a fare per me delle cose così, degli oggetti. Ho visto che piacevano, poi sono stati presentati delle fiere, sono piaciuti, poi si sono aggiunte delle altre cose e una cosa con l'altra. Abbiamo messo insieme questo marchio Giorgio Fedon 1919, che dall'anno scorso è diventato Fedon 1919 perché abbiamo racchiuso sotto un unico nome tutto quello che facciamo e che in questo momento cerchiamo di sviluppare. Adesso abbiamo appena aperto l'ultimo negozio all'aeroporto di Roma. Siamo all'inizio di un percorso che speriamo diventi importante. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.